Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, vi sembrerà strano ma Agostino è di nuovo con voi in queste frequenze 88700, 94 e 600, ovvero le frequenze di Blu Radio Veneto. Buonasera, ancora buonasera dal sottoscritto, ma soprattutto buonasera non da Stefano questa sera ma dal mio solito compagno di tante avventure. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, stasera ci sono io e così... C'è qualcuno che fischia? Sì, adesso abbiamo sistemato. Abbiamo sistemato un po'. Sì, ecco, leggermente. Leggermente. È troppo alto, forse. È troppo alto. Abbassate un po'. Ecco, adesso abbiamo sistemato. Sì, sono io, Stefano, è in viaggio, ritornerà la prossima settimana e ho preso il suo posto, ingloriosamente sempre, in ogni caso. Questa sera abbiamo una cantante che ci viene da New York City. Vi posso garantire, è un'autentica forza della natura in fatto di simpatia, ma soprattutto di bravura. Abbiamo l'onore di avere una grande, grandissima artista che ci viene a trovare in esclusiva italiana, insomma qui, sta facendo una tournée in Europa, è già stata in Svizzera, tornerà in Svizzera, è stata in Grecia, adesso c'è qualche giorno in Italia. Abbiamo con noi la splendida Spring Groove. Welcome, Spring. Grazie. Benvenuta a Blu Radio Veneto, Spring. Grazie mille. E poi abbiamo il suo accompagnatore, cioè Marco Sbarbati. Ciao a tutti. Ciao, grazie a te di averci portato Spring, ovviamente, insomma, che è una splendida, veramente splendida cantante. Ma poi stasera ci avvaliamo anche dell'aiuto di una carissima amica, ormai io ce la porto nel cuore, gli voglio un bene dell'anima, ed è una bravissima cantante, si chiama Alice Violato. Ciao Alice, benvenuta. Ciao a tutti, grazie mille Agostino. Si è fatto un progresso notevolissimo da dietro al microfono come artist, come star, sempre da dietro al microfono come protagonista del programma praticamente. E questo nel giro di soli pochi giorni. In tre giorni sono cambiato le cose. Allora, Spring. Sì. Adesso abbiamo bisogno della Alice o di Marco, insomma, se ci aiutano un po' con la traduzione. Allora, Alice, ci parli un po' di te. Chi è Spring? Spring, chi è Spring? Who is Spring? Sono qui. Sì. I'm a singer, I am a teacher, I am a writer, a learner, a lover, a server, Spring, many, many things. Sei molte cose, insomma, praticamente. Sei una cantante e poi aiuta... Ha detto che è un amante, un insegnante e quant'altro, insomma. Spring è molte cose assieme. È molte cose insieme. Allora, Spring è un nome d'arte. Non è il tuo vero nome, giusto? O è proprio il tuo vero, cioè Spring Groove è very name? Sì, it's my name. Alice, okay. Puoi parlare per il... Sì, ma mentre traduco. No, ma perché parli, ti sentono che... Puoi parlare lo stesso, non ci sono mica... Cioè, è live anche questo, è la traduzione live. Marco conferma, la traduzione live, è proprio così, sì, live è così. È il bello della diretta, sono 22:32 in perfetto orario, quindi assolutamente live. Vai, continua pure. Vai. Allora, tu hai cominciato a fare musical, giusto? Di Broadway come Grease e come Saturday Night Fever. Cosa interpretavi in quei musical? What did you do during the Broadway shows? I sang and I danced. I did 8 shows a week, every single week, for many, many years. Diceva che ha cantato, ha ballato per molti anni. Ogni... how many days a week? One day a week? 7 days a week. 7 giorni su 7. 8 shows a week, 7 days a week. Esatto. Yeah. E hai fatto 8 o 9 dischi, giusto? How many CDs? 9 CDs. 9 CD. L'ultimo si chiama Spring. Il nuovo CD intitola Spring Alive. Era un spettacolo in New York per un mese in piccolo teatro, il nome è Dixon Place, and il nuovo CD è tutto canzone da spettacoli. Una cosa interessante che ho letto nella tua biografia: sei stata influenzata dai Grateful Dead, Jerry Garcia Docet praticamente, e dai Everything But The Girl. come mai i Everything But The Girl? I love Everything But The Girl. And UK. They had molto CD. Penso che like 11, I think. Molto tranquilla ambient. Musica, però with really great, great grooves. Molto groove, sì, okay. Molto groove, yeah. Esatto. And her voce meravigliosa. Mi piace molto. Ma è molto swing, anche molto jazzata. Everything, quello, hanno qualche variazione swing e jazz allo stesso tempo. Everything But The Girl. Hanno quella una musica molto raffinata. He said that they have both swing and jazz together. Sono d'accordo. Sì. Però tu hai iniziato, ti sei formata con Joni Mitchell e Carole King. Carole King era forse my primo volta, primo influencer. Quando bambina, I listened on vinyl, on the record. Vinile. In my Tapestry. Tapestry, and sang everything in my room. Over and over and over and over and over again. Dobbiamo dire anche questo, forse tu lo sai. È importante dire di Carole King e di Joni Mitchell, perché sono state le prime a dare una spinta al cantautorato al femminile negli Stati Uniti, e in tutto il mondo praticamente. He said that Joni Mitchell, Carole King were the first. Sto traducendo la domanda. Sì, poi fallo. He wanted to know, Joni Mitchell and Carole King, they were the first to start the songwriting in USA on the female. On the female. They weren't the first, because there were many, but they were, for me, they were the first. Okay. For me, in my life, at the age I was, they were the first, and really important for me, as singers and songwriters. Sì, traduci pure. Quindi non sono state le prime, per la verità, ma per lei sono state primi, le prime in assoluto. I primi ascolti. Certamente. Certo. Io direi di ascoltarla subito, la sua voce, perché prima, mentre discutevamo, parlavamo un po', ci conoscevamo un po' di più, lei ha fatto delle canzoni, così ha provato delle canzoni. Vi posso garantire che sia io, sia Maurizio, sia Alice siamo rimasti a bocca aperta. E quindi credo che sia giusto, Spring, se adesso ci suoni qualcosa di tuo, insomma. Cosa ci fai ascoltare? First song is... intitolo Be the Light. Smoking. Don't want to board a train to leave my head. Can't wait another day for the sun to shine. I gotta find my way instead. So I write a song so my world will smile. Articulate the heart, grow a little later. Now there's a place to start. So go be the flower, be the star. Go be the light that you are. Go be the flower, be the star. Go be the light you are. Can't wait all day for the phone to ring, bringing bling bling and ching ching. No, I can't wait on someone else to make my dream. I gotta keep on moving, keep on grooving. That's what I'm gonna do and sing for you. So go be the flower, be the star. Go be the light that you are. Go you are. Ve lo dicevo io, è un'autentica... Brava Spring, brava, bravissima, veramente è splendida. Io l'ho sentita cantare dal vivo, è qualcosa di eccezionale. Very, very good. Thank you, grazie mille. Ok, ok. Moritz. Sì, il pezzo era molto bello, era un po' cadenzato, volutamente cadenzato, rallentato. Stiamo sistemando. Scusate però, eccoci. Live anche questo. Ok, dicevo che un pezzo era molto cadenzato, molto lento, volutamente lento, quasi un più che cantare, una specie di recitativo, quasi lo recitavi questo pezzo, è così? You were not only singing a slow song, you were reciting, you were talking during this song. Quasi lo recitavi, cioè molto lento, molto cadenzato. Come mai? Perché? Why? Why? Because singing is not just about notes, it's about conveying a message. Ah, ok, capito. C'era un messaggio, dovevi dare un messaggio, portare un messaggio. Ok. Sì, or a feeling. Esattamente. Quello è il motivo di questa cadenza e questo modo di cantare in questo pezzo, non è così? Sì, okay, esattamente. Perfetto. Tu hai detto che hai cominciato, sei formata con Joni Mitchell, e poi hai citato anche i Fish. Fish. È un gruppo molto forte, Fish, un gruppo potente. È fantastico, Fish. Come mai perché Fish? Dai Grateful Dead, ai Fish. Sì, però I really love about these bands the ability, the improvisational part sì, of it. Ah, ok, sì, ok. Hanno fatto because tanti dischi live, for sì, for me, loro. The improvisational part is the real music. It's the true music when you have to just totally listen and you have no idea what is coming next. It's fantastico, this really, really, really excites me. Io no, ho capito nell'insieme, Alice potrà dire anche Marco. Marco dice che appunto l'improvvisazione è la vera musica. Lei ha citato i Grateful Dead che sono il massimo dell'improvvisazione. It's e fisso i Grateful Dead odierni. It's so exciting because you never really know what it's going to be. You can see the Grateful Dead or Fish six times in one week and every time will be completely different. Cioè, ha detto che appunto puoi vedere questi gruppi per più di una volta, anche sei volte di seguito, e però faranno sempre qualcosa di diverso. Hai detto una cosa giusta, citiamo i Fish per esempio, hanno fatto tantissimi dischi live come i Grateful Dead, tantissimi dischi live. I Grateful Dead facevano 7 ore di musica consecutive. Fish made 7 live records. Grateful Dead, 7 live. Oh, I think more. I think much more. Senza fine. Non aveva fine la musica dei Grateful Dead. Sei d'accordo, Marco? Sono d'accordo. Jerry Garcia, grandissimo artista. I love Jerry Garcia. And his guitar playing is... strepitoso. Yeah, wonderful. Fantastico. Ok. Allora, Spring, tu tu fai anche, diciamo, l'artista di strada, la chiamiamo noi qui, nel senso che partecipi al Festival di Ferrara, i Buskers. Che emozione ti dà suonare direttamente a contatto con la gente, insomma? Sì. One of the reasons I like to busk so much is similar to the reason I like Fish and the Grateful Dead. Ho capito. Is because you never know what you will expect. It's this this feeling of being really in the moment. Nothing is expected. When I am busking, people are walking by to go to the store, to go to the movies. They are never coming to see me when they busk. And when you stop a crowd because of music, something magical happens. Something only in that moment right there happens. It's the same thing like improvisation. Okay. Sì, appunto dice suonare per strada di fronte alla gente che passa è bello anche perché non sai mai cosa succede. Nemmeno lei lo sa. Cosa succederà? E è proprio il momento che è particolare, che è magico, perché si può fermare una piccola folla ed è lì che si accende proprio la magia dell'improvvisazione, della musica dal vivo. Ma a lei piace molto, insomma, suonare dal vivo. Grazie. In mezzo alla gente, vero Spring? Sì, vorrei anche aggiungere una cosa. che ha detto che penso anch'io, nel senso che quando suoni in strada, molte persone quando passano, cioè non escono di casa per venire a sentire te. Magari qualcuno va al cinema, va qua, però poi ti ascolta e si ferma. Si ferma, esattamente. Quindi quella è la cosa bella, lei diceva, proprio il fatto che nessuno esce di casa per andare. Poi vabbè, magari uno poi lo scrive su Facebook. Certo. Però sì, lei diceva appunto questo. Questo è the magical. Bello, la magia di suonare per strada. Come ti sei trovata a suonare per strada in Italia rispetto in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, dappertutto? When I travel so much I realize also the magic of music, that it transcends different places. We are all people and we feel the same way. So as a musician I get to really understand that. That people are the same in Germany, in Europe, in America. We have similar feelings and we express ourselves in similar ways, and music brings us together. This is the beautiful part. We so often focus on the differences and not enough time spent thinking about the sameness. Okay. Allora dice che appunto la magia di questa musica trascende anche le differenze che ci possono essere in diversi stati, perché comunque è un modo di sentire che è uguale, e le persone sentono dei sentimenti che hanno tutti in comune, quindi nonostante ecco la nazionalità diversa, lei sente appunto che c'è qualcosa, un sentimento che li accomuna tutti. Certo, giusto, hai detto una cosa giusta, cioè che suoni negli Stati Uniti, che suoni in Italia, suoni in Svizzera, quando cominci a suonare la gente si ferma ed ascolta. E quindi è quello l'importante, mandi il messaggio, così. People stop to hear you play and listen to your message. And it's very exciting to know that it translates in different places. Ah, ho this capito. Is very exciting for me. Bene, io sono, sai, siccome a me piace sentirla cantare, c'ho ancora gli ascolti di prima della trasmissione, io ti voglio sempre e comunque sentire cantare. Cosa ci canti adesso? Che canzone? Che cosa ci fai sentire? Questo, ho scritto this song, questa canzone, intitola Today, oggi, perché pensiamo sempre a ieri o domani, domani, ieri, domani. Ma è oggi. You cling to so many but need no one. Why are you afraid of the dark? The truth rings home when you're all alone. Seems you're better than you thought. How's the world gonna get the best of you? Given till you're left with us. You come for fun, if you run you're done. So what you plan is never what's to come. Today is the only day we're gonna think about today. Yesterday is gone, tomorrow will bring what may. Today is the only day we're gonna think about today. Ain't gonna waste it away. It's all about today. Why do you have the same thoughts again and again? Worry won't take them away. In fact, it may come true, all the fear you fret, 'cause you gave it so much to you. So take the moment, enjoy the new, savor all that's fresh. Slow the breath way down, stop the head spinning round, see a brighter, truer you. Today is the only day we're gonna think about today. Yesterday is gone, tomorrow will bring what may. Today is the only day we're gonna think about today. Ain't gonna waste it away. It's all about today. Loka samasta suki no bhavantu. Loka samasta suki no bhavantu. Today is the only day we're gonna think about today. Yesterday is gone, tomorrow will bring what may. Hey, today is the only day we're gonna think about today. Ain't gonna waste it away. It's all about today. It's all about today. Today. Today. It's all about today. Veramente. Grazie. Brava. È un qualcosa sempre di particolare quando la senti cantare. Ci mette veramente tanta anima, tanta passione. Spring, io ti porto i saluti di una cantante, di un'amica del sottoscritto. Si chiama Floriana Mungari, ci sta ascoltando. Non so se da Crotone o dalla Toscana, ma insomma comunque ci sta ascoltando e ti porta i suoi saluti. Dice che sei bravissima. Thank you, Floriano. Floriana. Da Crotone mi fa segno. Ciao Floriana, un buon ascolto. E ha detto che ti ha sentito già altre volte su altri canali e gli piaci molto. She heard you before. Oh, okay. And she likes you very much. Cari ascoltatori, voi non avete visto, io ho visto, però quando cantava Spring c'era Marco che gli dava il là. Ho notato, gli dava là per partire giusta e lei è partita quando Marco gli ha dato l'ok. E così Spring. I gave you the start before when you start playing, he said. Oh, he's gonna give me the start? No, I gave you the start when you start the song. Ok. È così, sì. Me lo confermo, ha dato là e è partita praticamente. Tu hai detto una cosa giusta. Sono andata a vivere a Venice Beach in California e mi ha creato. Musicalmente, mi sono creata musicalmente a Venice in California. You started as an artist in Venice. I started in New York, where I was born and raised. I worked on Broadway for many, many years. E poi? And then I started to write music in New York. I did my first CD. Dopo trasferita a California. Però la California cosa ti ha dato? La California. What gave you? What is California? Sole. The Pacific Ocean. And a sense of tranquille that I never had in New York. And so it brought out a new side that was a little bit more relaxed and introspective. Cioè, ho capito. E per quello sei passata da una musica un po' più vivace a una musica più tranquilla. È quello. Sì, più acustico, più tranquilla, okay. Più di introspezione, di introspetti. Sì. Ok, very good. Sì. E tu, Spring, a te piace fare anche non solamente i concerti, diciamo, normali, tra virgolette, ma fai anche festival di yoga. Vai, partecipi a questi festival di yoga e anche concerti di musica folk. Understand? What's the question about yoga? You not only do concert, live concert, but also yoga and yoga shows. I do music in yoga, but I sing in Sanskrito. I do ancient, very ancient mantras in Sanskrito. So people get confused with yoga because they think that yoga is only physical, but this is not true. Yoga is also a philosophy, and yoga is also, there's a lot of chanting and music, devotional yoga, which we call bhakti yoga. And so I give concerts, sometimes in yoga communities, but they're all singing, and we sing in Sanskrit, and maybe I should do something that has a little bit of this so you understand. better. Mi traduce. Alice. Parla vicino al microfono, sempre Alice. Allora dice che è un po' difficile, giustamente. She's working hard here. Allora dice che lei appunto suona e canta durante queste sedute di yoga, perché lo yoga, dice, non è solo fisico, ma è anche una filosofia, quindi un modo di pensare. E durante questi concerti canta in sanscrito e canta anche assieme ai partecipanti. Cosa vuol dire sound scritto? Questo sanscrito, che è una lingua molto, molto antica, e adesso forse ci darà anche un assaggio di che cosa significa. Okay. Così sentiamo un po' il sound di quello che fa durante questi show. Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati, Mahadevi, Bhagavati, Bhagavati, Bhagavati, Bhagavati, Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati, Namo Namah, Namo Namah, Sarasvati, Namo Namah, Namo Namah, Namo Namah, Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati Mahadevi, Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati Mahadevi, Bhagavati, Bhagavati, Bhagavati, Bhagavati, Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati Mahadevi, Namo Namah, Namo Namah, Namo Namah, Sarasvati, Namo Namah, Namo Namah, Namo Namah, Sarasvati. Sempre più brava. Questa è una caratteristica della musica di questo genere, è una musica circolare, continuamente circolare, con un ritornello che si ripete, quasi ipnotico, e certe musiche simili a queste le faceva Claudio Rocchi. Claudio Rocchi è un cantautore italiano di grande fama, che per molti anni ha suonato questo genere musicale. Lui faceva, cioè, studiava proprio la musica indiana o certe musiche con le influenze simili alla musica indiana. E tu hai fatto un pezzo circolare, nel senso che si ripeteva continuamente, ritornello dopo ritornello, che entrava nella mente, con una musica anche melodiosa, molto avvolgente. È così? You've been repeating Well, it has a lot of repetition. Esatto, repetition. Esattamente. And the idea behind the repetition is that it calms the mind. Mm. So it's very similar to when we sing to babies and we sing a lullaby. Ho capito. Certo. And the lullaby becomes very lulling. Sì, può essere una lullaby, una, and puts them to sleep. The same way as adults, we like this same repetition. It doesn't necessarily, maybe puts us to sleep, but it calms the mind and puts us into the heart, out of the head, into the heart, which is a form of meditation. Sì, il senso l'ho capito, però adesso Alice lo traduce meglio. Se ci parli vicino al microfono, Alice, perché sennò non ci sentiamo. Diglielo sempre, Maurizio, diglielo. Sì, ma va mascolare. Ma è brava, sta traducendo, sta scrivendo tutto. Sta scrivendo. No, dice che appunto questa, le ripetizioni che abbiamo sentito, che abbiamo sentito durante questo brano, servono proprio a far sì che ci rimanga sia nel cuore che nella testa questa melodia. È un po', funziona come un po' le ninna nanne, la lullaby, no? Ninna nanne, esattamente. Quindi sono cose ripetitive che però servono anche a concentrarsi, a rilassarsi. Certo, certo. Da quando è cominciata questa, come dire, questo tuo amore, questa tua passione per questo tipo di musica, Spring? When did you start with this kind of music? The mantra music? Yes. Mantra music, sì. 6 anni fa? Mm-hmm. I think 6 anni fa. Sempre musica. Sì. Primo Broadway, dopo rock, dopo folk, dopo mantra, adesso tutto insieme. Okay. È possibile, se è possibile. Spring, ti porto i saluti di Sandra von Boris, che è una scrittrice di testi di canzoni, insomma. Ci sta ascoltando dalla Toscana e dice che sei bravissima. Ciao Sandra, un bacione. Sandra, ti ascolto. Ciao Sandra. Maurizio. Sì, abbiamo parlato di questa musica. Sì, giustamente Spring parlava di un disco che ci sono tanti generi musicali. Parlava del mantra, del rock, del folk, soprattutto del folk. Il folk, quanto amore c'è per il folk da parte tua nei tuoi pezzi? How do you love folk? Folk perché the scritto, the writing of the song. Is why I love folk music so much, the crafting of a really good written song. The mantra because of the emotion. Mm. Ho capito, sì, mantra da emozione. Sì. Però il folk fa parte del tuo DNA musicale. Yeah, the story. La tua storia, praticamente. Sì, nel fatto proprio dello scrivere. Ho capito. E io volevo chiedere a Marco invece com'è il suo rapporto, insomma, con Spring, come l'hai conosciuta e cosa provi ascoltandola, perché anche prima te ti vedevo sempre comunque emozionato nell'ascoltare la sua voce. No, io, cioè, nel senso, ancora quello che mi fa un po' effetto è che dopo 5 anni che la conosco ancora veramente mi piace tantissimo starla ad ascoltare, anche magari quando canta delle canzoni che conosco praticamente a memoria. E ancora sento quella cosa bella, no? Di quando senti un pezzo che ti emoziona. E l'ho conosciuta durante un festival di artisti di strada. E mi ricordo che... Sì, a Colmurano. E un mio amico mi disse, Marco, c'è una ragazza bionda con i rasta che sta suonando in piazza, andiamo a sentirla. E allora siamo andati e... Sì, da lì siamo diventati amici e poi... Io ho iniziato, cioè non ero un musicista prima di... Avevo questo desiderio di fare musica, però non l'avevo presa seriamente la cosa. Invece lei mi ha spinto tantissimo a fare verso questa strada, quindi sono veramente grato. Ricordiamo che Marco Sbarbati sarà da noi qui a cantare le sue canzoni, credo a settembre, vero Marco? Sì, sì. Più o meno, se non sbaglio. Ed è un altro artista bravissimo e lui, anche lui canta in inglese, giusto Marco? Ultimamente anche in italiano. Però, insomma. Però ho iniziato sì in inglese perché ho sempre ascoltato moltissima musica inglese. Lo potete tranquillamente trovare su YouTube sia come Buskers, perché anche lui è uno di questi, sì. E sia anche come con dei pezzi dal tuo disco, giusto? Dal tuo demo. Sì, sì. Posso chiederti una cosa, Spring? Come nascono le canzoni tue? Come le crei? Come ti viene l'ispirazione per fare un pezzo? How do you write your song? Your inspiration? Normally, people, persona, places that are really beautiful are helpful at writing. And just emotional experiences. Ah, okay. Emotional experiences, so people that move me, is mostly what I write about. And things, I write about things that I believe other people can also understand. Ho capito, cioè da numerose esperienze il parlare con la gente, il trovarsi con la gente provoca questo, proprio la costruzione dei pezzi. E musicalmente cominciano per chitarra o suoni qualche altro strumento? I write, the best ones are the ones that happen all together. I've written always, sometimes the lyric first and then the music. Sometimes the music and then the lyric, but the best ones are the ones that everything happens together without thinking too much about it. Ha detto appunto che le migliori sono quelle che nascono insieme. Quindi con voce e chitarra. Voce e chitarra, sì. A volte scrive prima il testo e poi la musica, però le migliori sono proprio quelle che nascono insieme. Questo disco, gli altri li hai prodotti te? You produced all the records before this. Questo no, right? Questo è stato prodotto con un altro. I produced everything with someone else. Sì. So the someone else has changed many times. Sometimes I work with the same people, but always I'm involved with all of the production of my records. Sì, ha sempre coprodotto praticamente i suoi dischi, poi sono cambiate le persone con cui ha prodotto i dischi, però ha sempre avuto qualcuno, diciamo, vicino. Ho capito, sì. Perfetto. Qualche musicista famoso anche che ti ha aiutato o hai fatto tutto da sola? Some renowned musicians that helped you during your records? Yes, some people with famous credits and people that they worked with, sure, in the USA. I'm very lucky, I know a lot of really, really talented musicians and producers. Tu conosci Eagle Eye Cherry, giusto? E anche Jennifer Aniston, giusto? Sì, sì, davvero. Sono tuoi amici, insomma. Hai fatto la scuola insieme. Are they your friends? No, we went to school together, though, many years ago. Many years ago. Yeah. Va bene, noi a questo punto, Maurizio, facciamo la solita domanda. Sì, facciamo la domanda. Cosa ci canti? Esatto. Next song. Ok. Aspetta, ricordiamo che questa è sempre Blue Radio Veneto, sono le 23.07, siamo assolutamente in diretta con questa cantante che arriva direttamente da New York City, si chiama Spring Groove, ci sta presentando la sua musica più che il suo ultimo disco, ne ha fatti 9, quindi può attingere in tantissimi CD, quindi la musica sua è ampia e soprattutto è numerosa, è numerosissima. Vi consiglio, se vi capita, di andarla a vedere, se vi capita di ascoltare qualche suo concerto live, e soprattutto magari a fine agosto c'è questo festival a Ferrara che si chiama appunto dedicato ai Baskers, la potete trovare tranquillamente per 5 giorni. Lei non suona, lei canta solamente in Italia, ma anche negli altri paesi europei, perché sta facendo proprio questa tournée in Europa per diversi mesi. Quanti mesi ti fermi qui in questa zona, Spring? How many months here in Italy? 8 mesi? 8 mesi. Sì. E canti ovunque. I travel a lot, so I go to Germany, back to Italy, Spain, back to Italy. Sempre in giro. Sì, I'm in Spain, in Austria, in Switzerland. Ti piace l'Europa, insomma. You like Europe. Yes, I do, very much. Yeah, I really like it. Okay, the song? This song is called It's All Right, Va Tutto Bene, perché a volte sembra che tutto vada male, e io credo che dovremmo ricordare a noi stessi che va tutto bene. Feeling fear and wanna run way back home. Home's not there no more. Take a breath. There's another door. Make a change, make a start. Start living from the heart. Too many things left the matter. No use getting sadder and madder. Turn it off, turn it off. turn it on. The light that shines beyond these dark, cruel, violent times. Fight fear with love. Yeah, it's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. With your love here tonight. Stop the war, stop this pain. Around the earth, who's not to blame? Living in a world of lies, where talk is cheap and money flies. Make a change, make a start. Start living from the heart. Too many things left the matter. No use getting sadder and madder. Turn it off, turn it off, turn it on. The light that shines beyond these dark, cruel, violent times. Fight fear with love. Yeah, it's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. With your love here tonight. Everybody needs to find their own way. And everybody needs a little time alone. And everybody's just a reflection of everybody else. It's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. With your love here tonight. Yeah. Oh, oh, oh. It's alright, it's alright, it's alright. It's all right, it's all right, it's all right. Che meraviglia, è bravissimo. Grande, grande, Spring, grande. Grazie. Grande, grande, bellissimo. Va tutto bene, it's all right, cioè si sentiva, si vedeva anche fisicamente le tue movenze quando cantavi, che va tutto bene, cioè la possibilità di portare positività alla gente mentre ti ascolta, è così? Prove. Prova. I try. Yeah, I do. I try to put music out there that's going to be helpful. Mm. It's my way of contributing to making the world a little bit better. Ha detto che prova a fare una musica che possa essere anche d'aiuto. D'aiuto, sì, esattamente. Che cerca, insomma, di dare il suo contributo attraverso la musica. Tu hai un modo, un tuo motto, insomma, che è splendido, Spring, e dice: la gioia più grande per Spring è poter unire le persone, aprire i loro cuori e farle cantare. The most important thing for you is to open people's heart and make them feel happy. Questo. Yes, and if I can get them to sing together, that makes me really happy. Farle cantare assieme è la cosa che la rende più felice. Quando spesso vai all'estero, cioè Germania, Spagna, eccetera, fai degli scambi anche di CD, cioè di musiche, di artisti, degli autori con cui suoni. Ci sono degli scambi di concorsi musicali, così spesso capita. Cioè tu dai i tuoi CD e gli artisti con cui suoni ti danno il loro CD per avere una chiave di volta più allargata del mondo musicale, così? While you're touring, you exchange CDs with other artists. Mm. Sì. È positivo, questo è molto positivo. Is it positive? What? Yes. Positive, sì. Yes. Is it positive to change CDs with people? What's no, the question? Cioè lo scambio tra la musica tua e la musica degli autori, degli artisti con cui ti trovi a cantare, è positivo, cioè allarga il tuo orizzonte musicale, così? Yes, it's gonna it's something useful for you to improve, to learn something more. Sempre, sì. Yeah, always expanding, and I like so many different kinds of music. So changing CDs with people, often I get things I've really never heard of before. Not always, but sometimes it's a really great way to just expand, I think. Sì, perché la musica deve essere universale, universal musica. Musica deve essere universale, non avere dei punti fermi. Completamente libera di avere tanti collegamenti in tanti diversi paesi. Music has many influences, so it's never like a picture which is steady, it's always changing, it's always moving. Sì, sei d'accordo. Spring, vuoi riposarti 3-4 minuti? Ci ascoltiamo Marco. Are you tired? Am I tired? Marco. Sì, sì, io sono. Potrei suonare qualcosa. Ok. Poi vuoi che facciamo ascoltare. Let music. We let Marco play. Yeah, great. No, devo essere sincero, questa è una domanda che ho fatto a Spring perché prima della trasmissione lei stessa mi ha chiesto di fare ascoltare una canzone giustamente del suo accompagnatore di questa sera, cioè del carissimo Marco Sbarbati, che ho avuto diversi contatti in questo ultimo periodo, vero Marco, correggimi se sbaglio, ma si è dimostrata una persona squisitissima. Te ne ringrazio ancora tanto per questa collaborazione che ci hai dato per Spring. Grazie a voi. Cosa ci canti, Marco? Allora, io vorrei cantare un mio pezzo in italiano. Ho portato due pezzi in realtà, però questo è in italiano e si chiama Mister Tutto è più facile. Solo che adesso dovrei muovermi un attimo. Sì, risposti al posto di... Siamo assolutamente dal vivo, Vera, quindi... Il bello della diretta. Sì, lo spostamento si sentirà, ma il bello della diretta, come giustamente diceva Marco, dovevo sottolineare la traduzione di Alice che ci sta dando da fare enormemente, e salutiamo e ringraziamo anche il nostro curatore assoluto che è Alberto Prisco, che anche grazie anche a lui siamo stasera. C'è anche Spring. Si sta preparando, sì, tutto dal vivo, si sta preparando anche dal vivo, come la Blue, diretta è questa. Quando sei pronto me lo dici. Sei pronto? Ok, sono vai. Pronto. Ok. Mister Tutto è più facile, si chiama questo pezzo. Ok. Una breve introduzione. Certo. Mister Tutto più facile è praticamente ogni volta che ci viene proposto di una scorciatoia, nel senso fai così che è un po' come dire starei bene sicuramente anche se... Cioè, quando vuoi delle cose però subito, senza magari lavorare prima. In questo caso il mister è tutto più facile, che potrebbe essere anche per una pillola per sentirsi meglio, oppure qualsiasi cosa. E ho scritto questa canzone pensando a questa sensazione qui. Presenta da me, mister tutto è più facile, vuol convincermi sai, mentre affogo nei guai, che un salvagente c'è, tutto tornerà stabile, ma la stabilità a me divora l'anima. Fa. Mi hanno detto che lui ti solleva, ma poi compromessi accettare dovrai, te ne pentirai. Non ti lascerà mai. E con un pretesto lui chiede di poter entrare. Futili momenti regalerà invitandoti a ballare. Inebriante senso di verità e la voglia di restare. Come un'altalena salirai per poi giù ricadere. Qui seduto accanto a me, mister, tutto è più facile. Vuoi convincermi, sai, che non ci riuscirei. Continuare così sembra molto improbabile. La ferita non guarirà, ma sarà tollerabile. E con un pretesto lui chiede di poter entrare. Futili momenti regalerà invitandoti a ballare. Inebriante senso di verità e la voglia di restare. Come un'altalena salirai per poi giù ricadere. Qui seduta accanto a me, mister, tutto è più facile. Veste i panni di una felicità particolarmente sterile. E la scelta su di me ricadrà forse il prezzo da pagare. Mai nessuno mai lo saprà, farò finta di non sapere. Grande Marco. Bravo Marco. Bravo. Grazie mille. Senti, già che sei in posa, puoi fare anche la seconda, visto che la sei preparata, che così poi lasciamo di nuovo lo spazio a Spring. Prima però io, se siete d'accordo sia te che Spring, volevo salutare un amico che, un'amica che abbiamo in comune, ed è Tisi. Che immagino stia ascoltando, perché si è tanto raccomandata di avvertirla, io l'ho fatto, insomma, poi spero sia all'ascolto, le mando un abbraccio, veramente un anche bacio. Anche noi. E in parte lo confesso, è anche merito suo se siete qui questa sera, perché lei mi ha dato i vostri nomi, lo dico sinceramente, quindi sono felice veramente, ti ringrazio Tissi di questo che hai fatto per il sottoscritto e per loro due soprattutto, e per le nostre emittente, insomma, Blu Radio Veneto. Le mandiamo un saluto, lui. Ciao. Tu la conosci bene, sì, voi sì, la conoscete. Antonella, sono... Antonella, sì. Ciao Antonella. Cosa ci fai ascoltare adesso? Questo pezzo si chiama I Don't Wanna Start, e ho scritto questo pezzo pensando a tutte quelle volte in cui non vogliamo iniziare qualcosa perché abbiamo paura che prima o poi questa cosa finisca. Quindi si chiama I Don't Wanna Start. Ok. Nothing goes like you have said. I've played with fire this week, and I'm afraid of it now. I was told that giving up, it's not a good thing for us. But us is not me, doesn't suit me, and I don't wanna start. Sick of listening, please don't teach me something that will fall. know your words are full of romance, but I won't change my ways, cause I'm sure this time the tortoise will not win the race. Come to this point day by day. I need a proof, and guess what? It came in May. Oh yeah, we'll lose far more than we could gain if we start. I cannot see a future where the good things fall apart. What you're asking, it doesn't suit me, and I don't wanna start. I'm sick of listening, please stop teaching something that will fall. I know your words are full of romance, but I won't change my ways, cause I'm sure this time the tortoise will not win the race. But now you're gone. Now you're gone. You have to know. You have to know. You have to know. You have to know. Il duetto non era previsto, non era assolutamente previsto. E le cose del live sta ce lo fate lì. Ce lo fate ancora 30 secondi del ritornello, poi un refrain, il refrain del ritornello, un refrain del quello ritornello. a due voci dai. They love the two voice, so okay, just a little part of the chorus, the same song, yes, just the chorus, okay. Should we do something different? The same thing? So, 1, 2, 3, 4. This is not me, it doesn't suit me, and I don't wanna start. Sick of listening, live and teach me something that will fall. I know your words are full of romance, but I won't change my ways, cause I'm sure this time the tortoise will not win the race. Perfetto, servizio. Che meraviglia. Perfetto, vai. Io sono rimasto a bocca aperta, non mi avevo mai sentito cantare tutti e due insieme, questa è stata quasi un'esclusiva. Sì, Spring parlava dell'improvvisazione, questa è assolutamente improvvisata, almeno per noi, dal vivo, una cosa meravigliosa. Avete sentito Marco Sbarbati, che ricordo sarà con noi a settembre, adesso ritorniamo appunto con Spring Groove, che ci viene, come dicevamo, da poi spostati se vuoi. Sì, tutto in diretta, non c'è problema. È tutto in diretta, insomma. Assolutamente in diretta. Che abbiamo l'ultima mezz'oretta, così ci ascoltiamo anche la voce appunto di Spring, insomma. Allora, questa è Blu Radio Veneto, la voce di Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, con Alice Violato, che ci dà una mano a, sì, insomma, a tradurre, perché noi insomma non siamo così tanto intelligenti, però Maurizio sì, beh, posso essere assolutamente d'accordo, no, cioè, perlomeno non sappiamo però così bene l'inglese, però sono simpaticissimi, ecco. grazie. Non questa... esageriamo Agostino. E comunque glielo diamo quasi come misteriosa la cosa, ma penso che riavremo Spring qui e riavremo anche Alice qui e magari riavremo per una trasmissione particolare, ma state sintonizzati, mi raccomando, stay tonight, come si dice, che non cambiate canale, che questa è la vostra emittente preferita, vi regala sempre emozioni come quella che ci canta adesso Spring. Che canzone ci canti adesso Spring? Che emozione ci fai vivere? No. In the moment. In the moment. Io amo questa canzone. La fai tu, gli fai d'accordo tu? No, però è una canzone che mi piace moltissimo, quindi sono contento. Allora mi aggiungo. So I wanna thank you now for the lesson that has brought me where I am. So grateful for the blessing. Better than I was before. I was never more in the moment. Than the minutes I spent with you. I was never more in the moment. Than the time that I shared with you. Love can go missing. Love keeps on kissing. Love can go missing. Love keeps on kissing. Where did you go when I was fractured? What fraction of you did I understand? You looked at me with those wide open eyes. It was as simple as holding your hand. I was never more in the moment than the minutes I spent with you. I was never more in the moment than the time that I shared with you. Love can go missing. Love keeps on kissing. Love can go missing. Love keeps on kissing. Come to me just one more time. Feel the love. Say you'll be mine. Come to me just one more time. Feel the love. Say you'll be mine. Say you'll be mine. Say you'll be. Say you'll be mine. Love can go missing. Love can go missing. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on kissing. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on kissing. keep on, keep on kissing. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on kissing. Keep on kissing. Bravissima. Come si fa a non amare una canzone e un artista così? Cioè, io credo che è impossibile, è troppo bravo, è vero Alice, ti vedo anche te, è presa moltissimo. Posso aggiungere una cosa, Agostino? Certo. Che è un peccato per gli ascoltatori che non possono vederla. Brava, adesso. Bravissima. Suggerisco appunto, se vi capita, di poterla anche vedere dal vivo. Primo perché sorride sempre mentre canta ed è una cosa veramente meravigliosa. Oltre al fatto che ogni parola è sentita. Ogni parola cantata è veramente sentita e questo è veramente bellissimo. Hai capito? È molto emozionante. Glielo spieghi tu, Marco? That I'm always smiling when I sing. Yeah, and you also every word you sing, you really feel it. You're into it. Grazie. Provo. Provo. E poi questo pezzo era molto difficile da fare, da eseguirsi anche vocalmente, e qui si vede e si sente. Tu che hai fatto un musical, si sente che hai fatto un musical. E un pezzo simile era molto complicato. It was a difficult song to perform. So it shows. One? Yes. Oh. Was it? Per te no, però per chi li ascolta sì. E avendo fatto un musical riesci ad andare sulle note alte, sulle note basse, senza nessun problema. Mm. Ok? Sì, yes. Hai capito benissimo. Spring, quando sei a casa da sola, cosa ascolti come musica? Cosa ti piace ascoltare? When you're at home, when you're alone, what do you listen? What kind of music do you listen to? Marco. Okay. I listen to sometimes mantra music. Mm. To really relax me when I travel so much. Traveling in my mind is always on so many things. This really keeps me more calm. A lot of ambient music, Sade. I like Sade a lot. Mm-hmm. Yeah, for the same reason, only it's in English. But for the same reason, for the calming effect. And then I listen to lots of different things. Sometimes in the house we listen to really fun pop music. Amy Winehouse and other things that just get us going. Adele and Sade, yes. There she is. Depends on the mood, but we like everything. We like really mellow music, Italiano music, sometimes pop music, mantra music, lots of different things. Hai tanti artisti, insomma, praticamente, giusto Alice? Ah sì, ha detto appunto che ascolta diversa musica, ascolta i mantra per rilassarsi dai viaggi, così come ascolta Sade per lo stesso motivo. E, poi ascolta anche della pop music come Amy Winehouse, Adele. E dipende un po' da come si sente, insomma. E tu? Brava. Vorrei aggiungere che abitiamo anche, c'è un'altra ragazza che anche lei fa musica e canta, quindi diciamo che anche lei è abbastanza pazza, ma in senso buono. Sì, e quindi ci fa ascoltare, ciao Silvia, tra l'altro la salutiamo, ci fa ascoltare un sacco di musica. Lei è quella che conosce tutte le canzoni commerciali del momento, quindi... Okay. Capito. E tu, ci Marco, divertiamo. E tu Marco invece cosa ascolti a casa? Ma io allora vi dico che sono contento perché a luglio andrò a sentire Damien Rice, andrò a sentire Bon Iver, che secondo me è un artista fenomenale, che straordinario, ancora sì. Non, nessuno, cioè pochi lo conoscono, non a Rockaway, no, qui lo conosciamo a Rockaway sicuramente. Okay. E anche i Radiohead, però non so, ho comprato il biglietto. Sei ma riuscito? Forse no. Sì, sono riuscito, ma forse non riesco ad andare. Quindi... Ah, peccato. Tracy Chapman. Coldplay. Sì, un sacco di... Però anch'io, come diceva lei, quando ero più piccolino, cioè... Tipo piccolino, sembro tipo vecchissimo in realtà. Sei giovanissimo. Però prima ascoltavo molto più rock music. Poi adesso invece, visto che comunque anch'io canto, allora mi piace farmi influenzare dalla musica folk, la musica un po' più tranquilla. Però ameresti, lui ce l'ha detto al microfono spento, ameresti una band? Sì. Sì, ultimamente sto valutando l'idea di avere una band, perché dopo... 3 o 4 anni che suoni sempre da solo, senti un po' l'esigenza di avere un background, però, qualcosa dietro. Che... Però vai a vedere Damien Rice e già ti salva di tutto. Sì, praticamente. Sì. Grandissimo Damien Rice, merita assolutamente di essere visto. Sì. Grandissimo. Yeah, great. Ok. Ci fai qualcos'altro? Suoniamo, suoniamo? Another one? Sure. Ok. Yeah. One. Okay. You want to hear something up or something? Yeah, something up. Questa canzone intitola Move This Train Along. It's about touring. Okay. Yeah. It's about, you understand? Touring? Touring. Viaggiare? Sì, di viaggiare. Gere, yeah. Around, lost and found around the world, and I'm still going strong. Don't always understand what they're saying, so I'm talking to myself once more. Throw a flower, receive a bouquet. This is something voices talking to me say. Keeps me moving, keeps me out of trouble this way. Is a place where a wish and a fear meet me there. I've been waiting so long. Take hold to the end of my rope. Love a little time, baby, to move this train along. Move this train along. Move this train along. Move this train along. All aboard. Driving solo can take its toll, but there's so much juice for the soul to drink along the way. I got a bag full of trinkets and treasures and mementos around my neck to wipe away the doubt and instill hope. And each one's got a message, and each one's got a thought, like with hope you have everything. We all must play our part. Well, I'm playing the troubadour, and I'm living from the heart. Place where a wish and a fear meet me there. I've been waiting so long. Take hold to the end of my rope. Love a little tug, baby, to move this train along. Move this train along. Move this train along. Move this train along. Every city's got its own mood, its own flavor and its own perfume. You take what you keep, and you keep on moving on. Move this train along, move this train along. Move this train along. Che grinta! Perde un po' della dolcezza, un po' di grinta, ma è sempre Spring Groove qui a Blu Radio Veneto. Sono le 23.43, il tempo vola, il tempo passa inesorabilmente, ma insomma è una cosa pazzesca. Io la rivoglio qui. Spring, ti rivoglio qui a Blu Radio Veneto, va bene? It must be back soon. Oh, grazie mille. Secondo me questo è un pezzo che ha un respiro californiano al 100%. Smells of California. Ah, 100%. Yes. E secondo me è un omaggio indiretto a Joni Mitchell. Questa canzone, sì. Penso che la prima volta che l'hai eseguita. No, la prima canzone è scritta in Italia. Ah, la prima canzone è scritta in Italia? Sì, è scritta in Penna Billy. Ah, ho capito. Però c'è un collegamento con la California al 100%. Well, I live in. Ma ho vissuto in California molti anni. Ti è rimasta dentro la California. So it's in there. C'è poco da fare. Questo era 10 anni, it's in there. assolutamente californiana, e secondo me era un omaggio velato a Joni Mitchell, come l'ha interpretata, a mio parere. Questo alzare il volume della voce, poi abbassarla e giocare sul ritornello, era molto alla Joni Mitchell nel senso positivo del termine, però non è nel senso positivo, è tua, assolutamente tua, però è un omaggio a Joni Mitchell. Is it an homage to Joni Mitchell? It sounded like Joni Mitchell, although it is a song of yours. I take it as a compliment. Okay. Grazie. Ha detto che è un complimento per lei. Ok, 23:45, Agostino. Ci siamo quasi, ma non ancora. Non ancora. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa. Spring e Marco, vi porto i saluti di Antonella Gucci dalla Liguria, che è un ufficio stampa. Ciao. Ciao Antonella. Greetings from Antonella, mi manchi tanti. No, è un'altra. È un'altra. Another one. Ah, another one. Every tutti Antonella. From Liguria. Liguria. Ciao Antonella. Ciao Antonella. Da ciao. Liguria. Piacere. Allora, Alice, che ne pensi? Non mi hai ancora dato un parere praticamente di questa serata. Però strana hai visto per la mia te. Faccia, no? Sì. Nel senso che è bellissimo veramente ascoltarla e, ripeto, bisogna vederla anche. Certo. Quindi invito tutti gli ascoltatori a trovarla, perché visto che lei si muove spesso, insomma, vi auguro di poterla vedere anche dal vivo. Fra i 9 dischi tu hai fatto, Spring, qual è stato il disco più complesso, più difficile da fare secondo te, fra i 9 che tu hai inciso? Among your 9 records, which was the more difficult? To make or to write? To make? Da fare o da scrivere? No, da scrivere, il disco più complesso che hai inciso, che hai trovato delle difficoltà che chiaramente hai superato. To write. To write. Non lo so, forse It's All Right. Ah. It's All Right was my blue. Ah, ho capito. It was my blue, like Joni Mitchell, her blue. Sì. Mm-hmm. Però it was a time where it was very unclear to me what I was doing. And it was a real turning point in my life when I wrote this CD. Mm-hmm. Sì, ha detto che appunto è stato It's All Right. È stato un po' il suo blu di Joni Mitchell, anche perché è stato un periodo di cambiamento in cui, insomma, non sapeva bene che strada doveva percorrere. Esattamente. Beh, chiaramente è stata una evoluzione, una continua evoluzione praticamente. Anche l'ultimo disco è una continua evoluzione. The last record is a kind of evolution. Yes, very much so. It was the first... maybe you'll remember. It was the first CD that I made where I had played these songs many times before. Normally, I write the songs and I get 10, 12, 15 songs and I go to the studio and make the CD. And after 1 year, these songs come to life and they become very different. But this CD, you understand, you can try. This CD, I had done these songs for a while, so it was very freeing to go into the studio and do songs that I had known and played for some time. Dice che in questo CD ci sono delle canzoni che lei ha suonato suona da moltissimo tempo. Moltissimo tempo. Mentre prima di solito scriveva queste canzoni, andava in studio e registrava. Quindi erano tutte abbastanza recenti. Poi si ritrovava ad avere dopo un anno o due queste canzoni suonate live che crescevano, cambiavano, diventavano completamente diverse. Invece questa volta è entrato in studio con delle canzoni che già conosceva benissimo e quindi è, secondo lei, il CD più completo. E come mai questa idea di entrare in studio con delle canzoni che già conoscevi? Why did you go in the studio with these songs that you already known? Because these were the songs that I chose for the show, Spring Alive. These were the songs that made sense for the story, for the show. And these are the songs I wanted to do again, for different reasons, and also I wanted to record them live. Ha detto che queste sono le canzoni che ha usato nello spettacolo che ha fatto negli Stati Uniti. Doveva scegliere una scaletta, doveva fare una scaletta, e queste sono le canzoni prese dai possiamo dire che è una specie di greatest hits. Esatto. Sì, it's like a greatest hits. Yes, and I got to do them live again, so they're different when they're live. Yeah. E se qualcuno vuole acquistare il tuo disco qui in Italia, si trova? Sì, è anche su iTunes. È anche su iTunes. Sì, tutti on iTunes. Sì, sì, sì. Yeah, and cdbaby.com and springgroove.com. All of my music is there. Sì, lo trovate anche su CD Baby e sul suo sito internet, springgroove.com. E poi c'hai anche Facebook. And Facebook Spring Music. Spring Music. Spring Music. Okay. Il prossimo concerto che fai, dove lo fai? Your next gig? It is in Zurigo. Ah, in Zurigo. Zurigo. Venerdì, no, giovedì. Giovedì, della settimana prossima, insomma. Sì. E la prossima canzone che ci fai? È la the next song. Another song. Sì. Ha levato via il capotasto, eh. Ne metto un altro adesso. Can you do anything? Can I tune my guitar again? Do we have a moment? Okay. Yes. Aspettiamo un attimo che si accorda. Certo. Io abbasso. È tutto dal vivo, eh. È tutto dal vivo. Anche la corda, accordare la chitarra è tutto dal vivo. È live assoluto. Ma questo è il bello della diretta, no? Come si suol dire. 23:50, oggi è lunedì, un lunedì di maggio, il 7 maggio. 7 maggio, sì, 7 maggio. 2012 con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, con Blu Radio Veneto e con questa splendida voce che mi dispiace sinceramente sia già arrivata quasi alla fine della trasmissione, ma sarei stato qui ore ad ascoltarla, insomma. Quando sei... When you are ready... Is you ready? Pronto. Traveled far away, left what she knew, find something more. She traveled far away, left what she knew. Everything was fine, even when the sun didn't shine. She looked to his eyes to remember, breathe, even though the obstacles keep coming. Believe, even though time keeps on running. Love, even though the heart knows baking. Try it another time. Make all the pieces come together. Breathe deeply. She walked into the jungle. Oh, wow. It's definitely live. Obstacles keep coming, believe, even though time keeps on running. Love, even though the heart knows of aching, try it another time to make all the pieces come together. Oh, traveled far from home, left behind her senses, drank in the ocean, and tasted everything. Left what she knew to find something more, didn't question anything, just walked through every door that was open. Was fine, even when the sun didn't shine. She looked to his eyes to remember, breathe. Even though the obstacles keep coming, believe. Even though time keeps on running, love. Even though the heart knows of aching, try yet another time to make all the pieces come together. Ganapati Namaha, Om Gom Ganapati Namaha, Ganapati Namaha, Om Gom Ganapati Namaha, Om Gom Ganapati Namaha, Om Gom Ganapati Namaha, Ganapati Namaha. La gioia più grande per Spring è poter unire le persone, aprire i loro cuori e farle cantare. Grandissima Spring Groove. Grazie mille. Questo, questo era un altro mantra praticamente, era un altro mantra anche questo, un po' piccolo però era un mantra anche questo. There was a part of mantra inside the song. Esatto. Con la voce di Marco ha rafforzato il mantra praticamente. Allora, io resterei qui ancora fino a domani mattina, Spring, ma tu fra tre quarti d'ora hai il treno che ti aspetta per Bologna e quindi dobbiamo scappare, dobbiamo chiudere. E noi come emittente, come Blu Radio Veneto, poi magari voi traducete, ti ringraziamo veramente di cuore di essere venuta qui questa sera e di averci dato, regalato queste emozioni fortissime. Thank you for having me here. It was a pleasure. Thank you very, very much. Really appreciate it. Speriamo di riaverti presto, insomma. Must be back soon. Okay. Okay. Ci vediamo presto. Presto anche con anche con Alice. Marco, io ti ringrazio per tutta la collaborazione che mi hai dato, per il sostegno e insomma, ho avuto bisogno spessissimo di te e sei stato sempre gentilissimo e cortesissimo. Anche questo di cuore, veramente te lo dice Ago, insomma, e anche Blu Radio Veneto, insomma, tutta Blu Radio Veneto. Io ringrazio voi, grazie mille. Anche Alice che è venuta per aiutare. È stata bravissima. È venuta. Brava Alice. È stato un onore, posso dirlo. Brava, brava. Non ha avuto dubbi quando gli ho chiesto, mi vieni per cortesia? Ma certo. Ed è una carissima amica, la porto nel cuore, come dicevo prima. Grazie anche a te, Alice. Grazie a te, Agostino e Maurizio. Noi ci risentiamo giovedì con Alessio Creatura, un cantautore italiano, è sempre qui, sempre a Radio Mento, dalle 21 alle 22.30. Prima però di salutarci, Spring, che ci canti un'ultima canzone, quella diciamo di saluto. The Last Song. The Greeting Song. Goodbye Song. That wasn't it? Ah, non era questa, dice. Non era questa. No, questa. One more. Una, ancora una. Quella che vuoi. Vuoi fare alleluia? No. Beh, io ci provo. Allora si accordano. Maurizio, tu devi dire qualcosa? No, io sono stato contentissimo di aver sentito Spring. A me piaceva moltissimo l'ultimo pezzo che avete fatto. Il duetto mantra fra te e Spring era molto, molto interessante anche musicalmente. Bello. Era bello, veramente bello. Pezzo musicalmente, cioè dal vivo già il disco era interessante, ma dal vivo le cose sono ancora migliori come sempre. È veramente stato un onore per noi ospitare Spring e anche te Marco, fare questo concerto live, assolutamente live, per quasi un'ora e mezza di musica, veramente musica con la M maiuscola. E quindi Marco anche tu sarai prossimamente qui a Blu Radio Veneto. Non vedo l'ora, sto aspettando. L'abbiamo posticipata per esigenze. Ho avuto dei problemi, ma a settembre ci sarò. Ci sarai sì. Con Spring, ovviamente, se vorrà venire, fatti compagnia, certo. Magari canterete certo. Canzoni. Quindi Spring, diventerai una fedele, come dire, partecipazione a questa emittente. He said, yeah, Alice, io... More times. Ok. Sei della famiglia ormai, va bene? You're in the family. Grazie, okay. I appreciate that. Thank you. Thanks for all Spring Group. We ciao, love. Ciao, buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte a te. We love. Thanks. The next thanks. Song. Oh my god. Okay. Seems like a good idea to get away, and it feels right now. I know that things will be oh so beautiful, just not quite sure how. So I unpack, but I leave all the baggage, only bring what I need. Go for a walk 'cause it's too cold to swim, and I take the camera with me, posted on a tree, waiting for me to see. It said to me, work like you don't need to, and dance like no one sees, and love like you've never heard before. Live like it's heaven on earth. What if this was heaven? So I got my photos, I got my shells, I got away, but not from myself. I knew that I'd return with brand new eyes, just not quite sure how. But not the ones that I expected. Ain't that just the way it always goes? And I don't know if I learned all the lessons there, but this one sure was clear. Posted on a tree, waiting for me to see. It said to me, work like you don't need to, dance like no one sees, and love like you've never heard before. Live like this is heaven. Would you dance you sing? Would you dance? If this was heaven, sweet, sweet, sweet heaven, sweet, sweet heaven, would you laugh? Would you laugh? Would you sing? Love like this was heaven, like this was heaven, like this was heaven, sweet heaven.